teniamo la destra il più possibile, così lasciamo lo spazio per le ambulanze che arrivano nel senso opposto. Com'è, va bene? Adesso fa un po', faremo un po' di rotatori, guarda bene le frecce come le metto, dove mi canalizzo, e tu devi fare la stessa cosa anche in moto. Usa il cambio un po' di più e lancia meglio la moto, dai, così va meglio, dai. Qua segnaliamo l'ostacolo, quindi freccia, attenzione anche a questi pedoni, quindi rallentiamo un po', via la freccia, via la freccia. Andiamo a sinistra ora, subito freccia, un po' di freno, poco meno, e li metti presente la prima. Mentre in rotatoria, quando arriviamo magari che sei in terza, si conviene e se libero la frontiera, come lo fai con la macchina, via la freccia, seconda e terza qua, poi poco prima di arrivare in rotatoria rallenti e scagliamo in seconda, però andiamo dritti in rotatoria, quindi seconda e terza. Apposta siamo. Freno. Non è un'interferenza, il canale 7 è occupato dalla banda cittadina, non è un'interferenza. Buonasera. Quindi se gentilmente vi spostate nel canale 1 forse è meglio. Ma dove siete? Via Milano. Centro Emanuele, ci sei Emanuele? Ciucca ciucca ciucca ciucca. Ciucca ciucca. Eccola. Qua sono, sto ascoltando in 80 metri. Stavo mettendo un po' a posto. Facendo un po' di cosette. E tu? Dove sei? A casa? E io sono a casa. Sono qua in camera. Mi stavo guardando un po' di televisione. E basta. Stamattina ero sui mansarda a mettere un po' a posto il montinaggio, sono quattro scatole piene di mondezza da portare via, se domani a due ne scendo, ho messo tutto in ordine, un po' di pulizia, e oggi poi vabbè stamattina, è tutta la mattina a cielo, e adesso niente, adesso sono qua. Madonna santa, mi era voglia di prendere la mola, cazzo, buttarle tutto in terra, ma faccio un danno allucinante al cartone catramatto, cazzo. Non puoi tagliare con la mola così, no? Se c'è cartone catramatto, oiaia. Faccio un bel di danno, già lo solo buco, poi mi tocca stare a riparare, a fare. Balle piene, vedete queste antenne lì, cazzo, buttate. Figurati che ne ho fatto a pezzi tre direttive nuove, ho lasciato solo quella delle UHF. C'erano 12 elementi, delle V l'ha giovata tutta a pezzi, tutto alluminio. Ci sono 4 secchi di alluminio da portare via. Capite? E lo porterò giù da coso, giusto per mangiare una pizza, per non buttarlo. Capite? E ogni volta mi guardo quella grande, cazzo, mi entra, mi viene il coso di prendere la mola e farla tutta a pezzi, davvero, solo che non c'ho il coso, non mi viene la, come si dice, se no via, la viva tutta a pezzi, adesso altre 4 bidoni di alluminio esco. Tutte le tenere a pezzi vuoi fare, ma io già ce l'ho. Questa qui che fa VEU, che sto usando adesso, e vabbè c'è l'X300 da una parte, capito? E poi la manta, vabbù, non ne ho altre antenne, prima ne avevo di più, adesso ne ho tolto una, tanto mi dava problemi alla manta, quindi l'ho tolta. No, io già ne ho quella di 6 metri ancora piazzata. 5 elementi. Vabbè. E oggi come va? No, ne ho già fatto a pezzi un bel, ho fatto quella dei 10, la monobanda dei 10, l'altra che avevo, ti ho detto, la 12 elementi per le VHF, e che quella delle U era troppo nuova, capito? Quindi l'ho smontata e messa a parte. E poi ci sono i 3 elementi della grande, 10, 15 e 20, che sono da 8 metri l'uno, annesci alluminio, con tutte le bobine attaccate ancora, l'ho appoggiata lì. Ma la mattina che parto col coraggio, coraggioso, vedi che la vuoto a pezzi, lo mattessi bruisce. Va bene, va bene. No, devo togliere tutto, Antonio, non ci fa niente. Lascio la Mantova e anche la X510, questa tolgo, la smonto, la metto a parte. Non ne vuoto nulla. C'ho la X200 piccolina per fare due chiacchiere, più che sufficiente, tanto non ho attività, non ne faccio più, non ne sto più facendo. Beh, sono sempre facendo attività, la tira a fare l'antenna. Stacchi, al limite, oltre le vendi. Posso di fare a pezzi, te le vendi, qualche cosettina che fai. Io, beh, gli avevo promesso, nessuno è venuto a darmi una mano, quindi si pensano che le debba smontare io e portargliele anche a casa, se la bigliano in culo. Non ci ho compreso. E quindi niente, le ho smontate, quelle che non mi servivano le ho fatte tutte a pezzi. Questa è la 5 elementi per i 6 metri e la 3 elementi 10, 15 e 20 ancora sul tetto. Ma ti sto dicendo che la mattina che parto coraggioso a vedere che forse a pezzi bruci. No, c'è il rotore, c'è tutto quello, già me lo vendo, ma le antenne non mi interessa venderle, cosa devo vendere? Io le avevo promesse. Ho detto venite, ve le smontate e ve le portate via. Sì. Nessuno ci è mai venuto. E allora già rimane in inchivi. Io non devo smontare niente a nessuno. Se le vogliono vengono e se le prendono, se no se la prendono in culo. Vabbè. Se le regali devi anche smontare. Scusa. Uno sarebbe meno venuto, avrei detto beh, me le smonto tutte, me le porto via, me le piatto a casa. Non è che devi smontarle il punto, non esiste. Lo so, ma molti pensano di... Cazzo, non li compresci. Io l'ho detto, ma non l'ho detto a CB, l'ho detto a radioamatori anche se di Alghero e di altre zone. Venite, ve le smontate, ma no, non voglio manco una lira, basta mi fate pulizia. Ve le smontate, ho tutti i manuali, tutte le cose, tutte in ordine, ve le portate via. Al regalo, ci ho buttato via 2.700 euro, ma non me ne ha fatti nulla. Capito? Non sto pensando ai soldi. L'importante è che se le smonti. Sì, Antonè, sì, nessuno ci è mai venuto. E allora dimmi sì, è il bar dei vostri tappeti. Almeno, non mi interessa niente. Antonio, mi ha chiamato mia moglie, ci sentiamo tra 5 minuti, ok? Arrivo subito. Ehi, va bene, ok, non c'è problema. È vero. Ui, e beh, cuomane. In Girella, sì. In Pisella sono. Si nota che sia passeggio. Ti pare mi danno in giro con un portatile, che vagando mai. Ok, io chiamo... Ogni tanto me la porta presso il portatile, me ne vanno in giro con il portatilino e lo accendo 5 minuti, poi vedo, lo spengo, se la viene in Napoli. Ah, tu, ma io no. E bisogna utilizzarle almeno, se no le batterie se ne vanno in tilt, capito? Avendo un portatile e poi non utilizzarlo mai, preferisco venderlo a un certo punto. Giallo. Ma non c'era Claudio? Sì, l'ha chiamato la moglie. Mi ha detto che viene da fare 5 minuti. A Giugavit. Già arriva fa poco, già arriva, giallo. Antonello Magone. Yeah, avanti. Antonello Magone. Ehi, ciao, buongiorno Magone, anche a te. Sei entrato Magone? Oh, è entrato uno, ma è Antonello Magone. E gli ho detto ciao, buongiorno, gli ho detto, ben entrato. Anche lui è Magone allora, non sai che questo canale ci sono solo i Magoni e i cuocuomani. E beh, Claudio. Pomani. Vabbè, orecchione. Saluto a tutti. Ogni tanto entrate anche in 27, mamma mia, la state facendo morire. Meglio, meglio che muoia, meglio. Dai, ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao. Sta così bene qua senza QRM. Ogni tanto già si può anche fare, ma ultimo periodo che c'era un casino, portanti, di tutto via. Capito Antonè? Tutto qua. No, stamattina quelle che erano già smontate, praticamente a terra, però erano da smontare. Non ne avevo voglia di stare a smontare, togliere vittine, cacciavitti. Ha giubilato, tra, tra, tra, tutti a pezzi. Capito? Ma prendi la pecora, mungi la pecora, tra, tra, tra. Ehi, ehi. Ma ti appendi lì sopra il tubo a staccarmene un'antenna? Mi prendi la quanto è alto. No, che è alto. Io ho paura per non mi fa niente l'altezza, se cammino, il terrazzo, boh, però è un periodo che se salgo molto in alto mi viene capogiro, capito? No, quattro cavallotti sono da staccare, saranno con la scala sarà un metro e mezzo, neanche due metri. Due metri sarà già un po', vabbè, non è molto alto. Ma salendo questi due metri poi vedi il vuoto. No, che c'è il pezzo sotto, cosa vuoi, cazzo? C'è il vuoto, avevo bigliato una mola, cosa me la puta sai? Capito? E per non romperla mi lu, perché mi, stamattina ne ho fatto a pezzi tre di direttive. Nuove, mi, funzionanti, e le avevo staccate e messe sul tetto. Siccome stamattina sono partito, dopo che ho portato il cane 9 metri, ero già sul tetto, sono sceso per la luna. Pulito tutta la mansarda, sono 4 scatoloni di immondezza da buttare via e 4 bidoni di alluminio. Ha giurato una pulizia allucinante. Spero di mantenerla così perché veramente c'era un mondezzaio. Capito? Ed è rimasta quella, la 5 elementi attaccata. È rimasta quella lì. Devo toglierne quella e abbassare tutto. Abbassare, però il telescopico è abbassato sino a un pezzo, l'altro pezzo non abbassa, quindi è un casino. O lo mollo dalle staffe e con la corda si abbassa, allora è un gioco, però bisogna essere almeno in 2 o 3. Beh, qualcuno. Beh, certo. Mi è Natalino, beh, Natalino. Siamo qua. Pure Natalino. Beh. Ma mi accoppi Natalino? Sì, che ti ascolto Luca, benissimo. Sì, già l'accoppiamo, accoppiamo. Basso, ma già arriva, dai. Basso, già arriva. KK, capito tu? Quello devo fare. E devo farlo prima che inizi l'inverno, eh. Non c'è niente da fare, perché qua se parto motivato e coraggioso, pido la mola, vero, eh. A costo di bucare la gabbiatura, quando i gaggi tutti in terra, ma mi rampo tutto con la mola, eh. No, ci dobbiamo organizzare, vedere il tutto. Porto la scala e vediamo, dai. Ia, ia. Devo toglierne tutto, devo lasciare solo la Mantova e la XC50, basta. Anche la XC300 ne devo togliere. Tanto è vecchia, ce l'ho nuova ma non la piazzo. Lascio la XC50, quella piccolina, giusto per fare due chiacchiere qua e ascoltare qualche ponte. E il resto, naggio di Bugatti, tutto. Pulizia, voglio vedere dalla strada, non si deve vedere più niente, solo un'antenna si deve vedere. Cazzo, buona centrale nucleare, cazzo. Okra. Oh. Tu non l'hai sentito? No, ma non è, per niente. Adesso provo a chiamarlo, dai. Comunque, buonasera a tutti, dai. Riprendi qua. Ciao, Manuè, buonasera anche a te. Qua siamo. KK, chi tu eri? 80 metri. Siamo usciti alle 9.30. Ah, ecco. Questo va a Palermo. Antone. Allora, bubu, ciao Natalì, per entrato anche a te, hai sentito. Avanti Luca. Allora sei a casa della tua 25, Luca. Ho capito, a casa? A casa della tua 25, sì. Chi ha presa? Sì. Diciamo da qua impatta bene, dai, la casa un po' meno, ma un po' un bel. Eppure la moto dovesse essere più alto di segnale, penso. Qui arrivi bene da dove sei. Ha voglia. E si conferma. E vabbè. Già va bene, dai. Meno male non si è più spenta questa radio. Sta funzionando adesso. Non so cosa l'ha pigliato. Ugo non ce l'ha pigliato. Ma pastigli l'hai dato? Su Viagra, cra. Facci per l'antenna dritta. Allora è per quello lui. Dagliela ogni tanto. Capito? Dagli ogni tanto, gira dritto anche lui. Uia, uia. Mamma mia, come sto? Natalie! Uia! Ah, mi accoppi! Già ti ascolto! Come diceva la buon'anima di Raffaele. Sono qui, sono qui, ah, mi accoppi! Vedi, cara, tanto ti arrivavi frusciato, adesso arrivi tutto sparato. Boh, chissà cosa era il problema, boh, non ti sentivo bene. Come l'hai revisionato, ma te l'ho detto, non è un problema mio, io sto usando la radio grande, con l'antenna grande, è impossibile mi senti frusciato. Adesso arrivo a manettone da tutte le parti. Uia, uia, Cannagana l'ammazza. Davvero, me. Antonello l'ammazza ne subito. Non credo, no. Io già non giocare di fare cosa, solo che non puoi fare nulla. Non ti permettono di fare nulla, perché se ti beccano, faccio la fine di quei due che hanno arrestato, a cui due tipi che facevano atti marziali, cazzo, diciamo di cittadinanza, cazzo. Quelli c'hanno un'attività, visto, cussette, macchine grosse. Cuomani, capito. E si hanno abbigliato come un pezzino, ci sono stato rubato, cazzo, l'avevo gambizzati a tutte e due, ve l'avevo da Dio l'arte marziali. E scegli a carrossella e l'avevano fatto l'arte marziali. A chi l'avevo imparati a tutte e due. Tanto. Quando perdi un figlio così a 20 anni in quelle condizioni, in quella situazione lì, cazzo, non vai più nudo da bislimmi. Ma quelli volevano spararti col fucile che c'ho io, caricato a pallettoni, però per non sbagliarli, capito? Vedrà che erano andati a vedere in piedi a rotelle, quindi su gli hanno ribaglio. No, Natalie, senza ammazzarli, gambizzati tutti e due, capito? Tutti e due in sedia a carrozzella, avevano fatto la gara con i sedia a carrozzella tutti e due. Troppo comodo, falli soffrire, capito? Falli provare cosa vuol dire essere invalido. Miserabili bastardi, cazzo. Un ragazzino di 20 anni hanno ammazzato. Per carità, dove siamo andati a finire, cazzo. Ma quelli sono esaltati. Capito? Quelli lì sono esaltati, so. Non... Anche io le ho fatte le arti marziali peggio di loro, forse. Però non sono andato mai a attaccare briga con nessuno. Vabbè, quando uno fa sport bisogna avere la testa, hai capito? Bisogna avere la testa, essere umani, non fare una cosa del genere, perché quella è proprio da vigliacchi. E vabbè, siamo perdere. Tra gente c'è lo stato rubato, di subizzino, non erano incampati assai che si due, tranquillo che non erano incampati. Vai, Logarie. Ah, molto bruciati. Ma sono in isolamento, perché se non stanno attenti i detenuti stessi li ammazzano. Sono in isolamento perché stanno temendo che i detenuti li ammazzino a quei due. Non fatene ve. Fanno benissimo, capito? Come hanno fatto loro. Perché quello che hanno fatto è una cosa disumana. Non ci sono parole, capito? Non ci sono parole, ho visto un filmato proprio da impressionante. Vabbè. Gappa gappa, uia gira. Oh, ciao. Allora, se ti serve ne ho un'altra io, UHF di antenna, piccola, non so se è 15, 17, 10, boh, non so. Non è molto grande comunque. Se ti serve te la do, la metti al posto di quella, buh. Ti agevi una direttiva per questa banda? Seria, però no, una direttiva autocostruita? No, una verticale piccolina te la volevo mettere. Questa sarà un metro e venti di antenna, 1,50 m di antenna, già BCC. Però è imbattibile. Io ce l'avevo in HF, citavo tutti i punti, anche quelli della Liguria, figurati, l'avevo messa a nord, è piccolino. Quella la punti su Sassari, la metti un tubo sulla ringhiera, la punti su Sassari e arrivi bene a tutte le parti. Se no la vostra a pezzi brucia. Però siamo come è fatta? Ce l'ho su, non l'ho fatto manco foto. No, è bella, è piccolina, no, non è ingombrante. È meno ingombrante di un'antenna verticale, figurati. Ah, metti su un palo, ci sono i cavallotti, l'attacchi, la punti. Decidi tu dove puntarla. Capito? Sei a posto. Vabbè, poi quando ci vediamo la vedi, se ti piace te la porti via. Non c'è nessun problema. Vabbè. Un metro? No, 1,20 m, 1,30 m, è piccolina, forse neanche. Che cazzo sto dicendo 1,20 m? C'è un metro. Ma di lunghezza, di larghezza, come? Non ho capito. Di lunghezza, di larghezza c'è i radiali da 25-30 centimetri. Ho capito. Boh, se funziona, perché no? Poi non so ma come si fa a puntarla, boh. Qui è le mamme, devi affidare, non è che devi affidare nulla. È pronta per mettere i cavallotti, attaccare il PL e basta, non c'è a tarare niente. Le direttive non si tarano. Quello lì non si tara, è già tarato. Già poi ce l'avevo io in UHF, l'avevo tolta, c'avevo il sistema piccolo che c'erano le direttive V, le direttive U, capito? Ma ci ho bugato tutto. Insomma quella è troppo nuova, è nuova, lucia, capito? Perché l'ho usata pochissimo. E allora non l'ha giovata a pezzi, ma tutte le altre che erano usate già, però funzionanti, l'ha giovata tutte a pezzi. Tanto non c'era altra alternativa per poterle smontare. Ho preso tre bidoni di tinta di quelli a 25 kg, li ho fatti tutti a pezzi a 20 cm e la giù tutta scintata dentro lo bidone. Appena c'ho tempo carico tutte le macchine e ci lasciando la Gosmina. Che appagappa, Natalino. Vabbè, e cosa vuoi che ti dica? Bello casino. No, io voglio, sono stancato un bello oggi, cazzo. Ci ho fatto un culo, un caldo, vedi, mansarda, vabbè, ero il pantaloncini a petto duro, ma ci sarei da pigliato, finalmente si può camminare, ci vede un po' di ordine, sto montonando, dubbi, un inantallato, cavi, tutto ingrigliorato qua, piegato tutto, conservato tutto, cazzo, cavi nuovi, tubi ne ho, ho messo tutti in piedi, dritti, tutto pulito, ordinato. Allucinante, sono montinaggio Baria. Anche perché a volte salgo a fare qualche lavoro, che sono vero gomaco da Puggiatti. Figurati che. Oia, c'ho il. L'unica che non ho staccato è la direttiva, quella wifi che mi si è cribbata. A comprarmela nuova. Questa palla di tiro, il 27, vado dai cinesi e me la prendo, così la punto nel palazzo di fronte e sono a gratis con computer. Sì. No, ma io ero già da un po', salgo. Stamattina ho detto, beh, non c'ho niente da fare, ma io ne ho fatto veramente un grandissimo lavoro. Ah, ma tocca la centenne, le altre però da solo non ce la faccio. Se c'è uno che dà una mano a abbassarle, vedi di strisci. E boh, tanto c'ho i dipoli. C'ho i dipoli 10, 15, 20, 40 e 80. Perciò non ne voglio più vedere di altre antenne. Il dipolo è più che sufficiente. Cazzo mi ha segnato, ragazzi. Sono 80 metri, bel segnale, Palermo, 9 più 20. Vabbè, c'è di polo gli 80, full side, monobanda, figura di 12 non arrivini. Ah, voglia propagazione. Se siete ci sono metti qua, vai, me lo vai altro, grazie. No, no, forse no. Qualche cosa c'è. Cazzo. Aspetta un attimo. Sì, io no, c'è... c'è un po' di propagazione. 40 c'è il Marconi lì, quindi c'è il conte, se Guglielmo Marconi, mi pare che sia tre giorni, giovedì, venerdì e sabato, mi porto. Va bene, va bene. La cultura bassa da di gallo oggi, ma tessi, mamma tua. Cosa, Lu? Ha giurito, ha avuto una bassa da di gallo. Cro, cro. Tra settimane così. Inizia a rinfrescare alla prossima. Vabbè, ma già va bene, dai, caldo caldo non ce n'è, si sta bene, non è... E la mattina, minchia, sono uscito alle 7:30 stamattina, e tu mi avreddo. È morto. 17 gradi c'erano di ieri mattina. Alle 8, No, io sono uscito alle 7:15, mi pare c'erano 16 gradi. Ma c'era molta umidità, c'era un bel di nebbia, c'era freddo. Poi quando sono entrato alle 9, c'è un caldo da morire, infatti ho portato il cane, alle 9:30 me ne sono salito sul tetto. Capo, infatti c'era nebbia stamattina, è un bel di umidità. Sono... mi sono alzato, ho fatto la colazione alla Simona, poi gli ho obbligato di bere e gli ho detto no, no, resto a casa oggi. Ieri mi sono fatto la spesa e quindi oggi me ne sono rimasto a casa. Sono venuto la birra ieri sera lì la cosa, verso le 8 insieme a Giovanna, e poi sono rientrato a casa. No, sto andando se non partivo, già birra. Per tutto il sacrificio che ho fatto mi pongo in corpo birra. Assolutamente. No, no. Sto continuando a scendere anche. Infatti mi ha visto Massimiliano, ma Briardo mi ha detto che sono troppo magro. Beh. Però io il problema che ho è serio. E quindi devo stare buono, se no è un casino. E già me l'hai detto l'altra volta. Devi praticare, dimagrire un pochettino. Io sono qua, io non c'è problema, fatte fatte. Ci vuole la tisana, ci vuole quella che vende lo spin, ci metti un po' di limone, sai come scende la pancia subito. E cos'è la birra? Oh, la tisana c'è, facendo le... cioè se uno beve roba gasata come lo bevo io spesso, l'aranciata, l'acqua che vende lo spì, insomma gonfiato, ma adesso infatti non sto più bevendo roba gasata così. Non posso bere io, Antonè, c'è un problema, non posso bere né roba gasata, non posso bere niente, sto facendo una cura e quindi non posso bere niente, sto mangiando anche poco, insomma, sono seguito dal dietologo, ho problemi, quindi non posso, sto bene così, va bene, mi sto muovendo benissimo, ok, va bene, pazienza, c'è Bigliellucci, Ugarie. Aspetta, mi sto guardando un video di questo tipo che ha pescato, però non sa cos'è, sono ratta, boh. Da qualche grongo. E allora è mio. Oh. Ma era pescata mia sorella, che è un pesce gatto, c'ha i baffi. C'ha i baffi a zampa d'elefante? No, a culo di scimmia ce li ha girati. Sì, bestione, sei da cazzo, ma sono un tonno, no, cosa cacchio? Sì, bestione, ma dove è sua? Da qualche cernia, qualcosa. Aspetta un attimo, arrivo subito, mi sta chiamando Anna. Andiamo, andiamo, che te? Cosa ridda, Cosa ridda, Cata, c'è una crema qua. A stuzzarla, cazzo. Ghiacciata, cazzo. Perché c'è il coso dentro, all'interno. Per farla uscire fuori, cazzo. Gli hanno messo... butano come gas. Oh, e quindi era ghiacciata? Allora, quando la struccia il gas è ghiacciata, come la bombola del gas normale, mi gas butano all'interno, in pratica mi sto avvelenando da solo, a parte la crema che c'è, che esce tipo con schiuma la barba, c'è il gas butano all'interno, figurati, non bisogna stare, proteggere le leggi solari, non esporre a temperature superiori ai 50 gradi e non avvicinate a una sigaretta nemmeno, se no pigli poco. Aspetta un secondo che è arrivata mia figlia, un minuto. Eia, d'accordo. Ciucchi. Vabbè. Allora, non sapendo che fine ha fatto. Atari dice sì. Sparito. Zucca. Eia. Mettiti la tenda sopra, quando c'è Claudio Tarallà, la punti verso polizetta, vedrai come ci fotte. Eia. E se la punti a grattacielo parli con la Francia. Aspetta, Antonio, che c'è mia figlia, sto parlando. Ehi, fai, sta parlando con Luca, non c'è problema. Andiamo, andiamo, babbo. Cosa vedi? Chi è te? Oh, io ya. Ciucca ciù. La. Hola, España. Sì, ok, dai, spostati sulla destra, però sono andato bene. Bene, adesso tira su ancora un po', dai. No, non è dritto, è andato troppo a destra. Bene, bloccalo così, dai. Dai che sto arrivando anche io, visto che la mano ha fissato bene. Ascolta, quel palo la sementi però, fallo scaricare lassù. Ma perché sta uscendo tutto così brisastato, Gianfranco? Beh. Un microfono stava provando. Ma sono in FM. Ma non so se sono in FM, aspetta il controllo. FM, anche lì ci puoi... No, sono in AM, lo so. No, non mi interessa, ragazzi. Partecipare a questi corsi, ma è prove contro prove, no, non me ne ha fatti nulla. Vabbè, dai, si manco un attimo con Rick, Santone, ci sentiamo dopo. Io d'accordo, va bene. La brittella, la gazzarella, la dapparella. Antonello? Cos'arete? Cazzo, mi ha chiamato uno al telefono. Voleva che partecipavo a giocare in borsa con Amazon. Ha detto vai, cocca, arriva che non ero sul rio. Ho detto no, ma perché devi mettere i soldi, mi ha detto. Ti faccio il corso io, se tu prendi 100 a me me ne dai 30. Ma ha detto piacere al cazzo, gli ho detto. La borsa della Guglupa. A giocare in borsa, capito? Quando il titolo è basso compri, quando invece si solleva rivendi, capito? E ti fai le plusvalenza, mi pare si chiama. Sì, va la borsa della Guglupa. Una specie di... come fanno i banchieri, con i soldi degli altri. La stessa cosa per guadagnare. Tu li metti i soldi in banca e loro si giocano con i soldi tuoi. Ehi, ma questo qua voleva la borsa della Guglupa. Ah, boh, guarda, te l'ha già mandato a fanculo, infatti, ieri. Senta, da sud, non me ne frega niente, gli ho detto a me. E lei non si deve preoccupare, mi ha detto che faccio il corso io. Poi lei ci aveva un stipendio di me, sì, sì, gli ho detto. Allora già sto fresco, gli ho detto. Forse voleva giocare con la gugliuppa, capito? Senz'altro, dalla voce era... mi è sembrato albanese. Se no già giocavano bene con la gugliuppa. Io non credo che si giocano bene. Adesso mi voleva infinocchiare, Gito, vai. Arrivato, se c'è il soldi me li tengo io, non devo dargli a te. Se li beviamo, Antone, di vino. Certo che me bevo. Si credi che gli do a loro. Quanti c'erano di quelli? Quando c'era... vabbè, a parte tutti quei siti strani che... adesso sono spariti. Tutti i siti di incontri che quando c'era il lockdown. Ah, e beh, hanno rovinato a tutti. Tutto pieno dei siti di incontri, tutto. Non c'era un coso su Facebook, non c'era un sito di incontro. Di tutto di più, vera. E tutti anche lei ti soldi, ti creavano amicizia. Dopo ti facevano passare su WhatsApp. Dopo 3-4 giorni, cosa del genere, l'ho preso e prendo e ti chiedo uno studio, era la fresca, glielo. Tutta la zona della Costa Lavorio poi, tutti francesi. Ma per carità, va. E gente che ti cadi in Agis, con la scusa, capito? Cercavo uno studio. Te lo so, va. Inusi. Ho un'amicizia che vado a farmacia, ma c'ha... ogni tanto tutte amiche sue sono. Tutte dagli Stati Uniti. Tutte spoglie dell'Instagram. E tu, invito, attaccarsi alla cugliuppa. No, guarda, non l'ho più visto. L'ho visto un giorno al centro storico, l'ho visto, tutto ben vestito. Però pensavo che come amicizia va tutta questa roba qua. Non è una salaga. Tutte così solo. Tutte malate? No, tutte spogliarelliste sono. Capito? Fanno vedere la gugliuppa. Eia. Ma te vai nel loro sito, ti guardi i filmati, ya sta, e paghi naturalmente. Sì, certo. Non vuoi gugliussi. Mi ha dato... non tanto a me mi scrive una, ma una scrivere e non chiedere i soldi. Gatta. Tanto prima o poi moriamo tutti. Vabbè, io lo so, va. Ma ve la bozza. So, ieri mi ha fatto ridere Stefano, che si è messo in posa, si è messo e sta cercando femmina. Io volevo presentare una mia cugina, poi Giubaetto. Ha cercato una ragazza seria. A stare si perde tempo. E gli ho detto che devo presentare mia cugina. E lui cosa ti ha risposto? Di agotto. No, mi ha risposto. Ah, via. Ma non sa se glielo dico. Se vuoi fare qualche ragazza seria, è meglio che dici subito che c'è lo stipendio. Perché se non vai di là e non c'è macchina, non ti carica il manco morto. Potresti essere più bello che della terra, non ti carica già nessuno. E qua. Molta carrozzella. Ormai vogliono tutte le... uomo lo vogliono così. Ci abbia lo stipendio, ci abbia la casa. Ma cosa ti chiedono? Lo stipendio, la casa o la macchina? Poi se sei studiato, se sei tonto, non gliela fatti nulla. Non è così, se non sono in assoluta. Ci vuole un po' di intelligenza, non dico tanta, ma almeno un minimo, capito? E che te lo sto dicendo? Ne sono un bel così, di ragazze che cercano ragazzi per quel motivo. Ti sembra la cosa giusta? A meno che non trovi qualcuno in discoteca così. La codice di discoteca ti fai l'avventura, poi a parte di braghe e di bigli, non mi viene a te ognuno per i fatti suoi. Vendo quanto va uno. Perché manca la bobina di alluminio, e il puntale. Quello fatto a palla. qua è un bel lodo. La bobina non mia è sempre 500.000, va bene anche il tubo di rame. 100 euro che vuole questo esaurito. E chi è Tore? Un tipo. Aspetta, aspetta, cos'è? Cerrato Marco si chiama, Radio Mercato Italia, OMCB, SWL, BCL. Che è la mantovola sta vendendo? Questa bobina 100 euro, che è esaurito. Di là qui, entrati siano in luci. Gira, gira, sì. Cesse. Per carità. Prova a ridare. Cosa ridare? Avvero. Avvero, avvero. Ah, se vedi ce l'ho sta tirando adesso, è ora. Poi c'è la birra bella fresca, fresca in frigo per un cini di Licnusa. Me la sto bevendo anch'io, bella fresca adesso. Sono tutta la sera che mi sto sciogliendo qui in camera. Col caldo che c'era, dovevo uscire con mio nipote. E con Simone a fargli bere una birra, la birra me la bevo io. Una lanciata a Simona. E invece non aveva voglia. Accendiamo domani mattina a mezzogiorno. Tanto la birra ce l'avevo comprata già ieri, me l'ho presa dal frigo e me la sto bevendo piano piano. E Simona, bene sta? Ah? Ho detto Simona, bene sta? C'ha le... quando cambia il tempo lì, c'ha le gambe un po' molli, capito? Allora mi tocca accompagnarla quando va nei posti, non in bagno, ma... che altro, deve rinforzarsi i muscoli, sta facendo fisioterapia qualcosa, con la sigaretta piccola. Non sta più fumando, no? No, no, no. Sì, no, cioè. E beh, Giampiero invece. Giampiero fuma, un pacchetto di sigarette va lì. E poi sta bevendo anche una birra a pranzo e una birra a cena. Vabbè, prima si gribava l'ampulla di Mirta va lì. No, già si è ripreso, già. Si è ripreso bene. Se non aveva bevuto un litro al giorno come faceva prima, sarebbe stato tranquillo con le gambe sue ancora camminando. Capito? Non gli sarebbe accaduto nulla. Invece col mito si è proprio massacrato. Non c'era da scherzare, no? Ma allettato, no? Ehi, allettato, eh. Ah, pompo, allettato, Ehi, ah. Certo. E un po' a testa sua, ogni tanto. Un dato per si fa la passeggiata, va lì a cambiarsi i catetti nell'ospedale, farsi un giro in coso. Ormai conosce tutti le ambulanze, tutti quanti li conosci. Ma cammina! No, è allettato, come fa a camminare? Oh, non si regge in piedi, se lo mette in piedi non si regge. Vabbè, allettato significa che sta sempre a letto, eh. Infatti è sempre a letto. Vabbè, ma un allettato... come dici tu, non cammina niente, zero, non si legge proprio 90. No, non si legge in piedi, e non anda nemmanco. Quanti anni ha? Un anno, no, nel 61, due anni più di me. E sta giovane burro, casino, Con l'alcol non c'è da scherzare. Con sigarette lui, se fumava due pacchetti al giorno lui. E lì, con i curi non c'è da scherzare, sono maledetti, fanno danno. Quando l'ho portato all'ospedale non si reggeva in piedi, però non gli era accaduto nulla. Dopo, verso le 8 di sera, gli è venuto l'ictus, non riusciva a respirare, allora ci hanno subito entrato dentro. E se no sarebbe stato ancora lì aspettando. Eravamo dalle 8 del mattino lì buttati in ospedale. A pronto soccorso, non fate entrare alle 8:30 di sera. Io sono ben comodi. 1, 2, 3, prova. Fate già, ogni tanto già crolla qualcuno lì. Io dico aspetti, non è in pericolo di vita, lei può aspettare tranquillamente. Quando poi si accasciano in terra si spaventano gli infermieri, ce lo portano direttamente dentro in ambulatorio. Mica facile. Io gli ho dato gli abbigliani di Susa, ho visto, gli infermieri, e i medici, direi. Perché aspettare 12 ore e buttati non è bello. Capito? Se uno va lì a pronto soccorso ci va perché vuole essere controllato, no? Per rimanere tutto il giorno buttato lì. Sai, perché io sono. Ho scolto la faccia a terra, sono andato dopo due giorni, faceva male la faccia. Eppure mi sono fatto 10 ore di coso, pronto soccorso. Io ho giocato. Quant'è? 7 ore, 7-8 ore sono fatto. Devi buttato a pronto soccorso. Per carità. E conviene andare a mezzanotte, capito? A mezzanotte non c'è nessuno. Entri subito. Se invece vai la mattina o la sera, devi aspettare. Intanto ti fanno entrare alle 2 o alle 3 del mattino. Già lo so, già lo so. Cazzo, la torella per iniziare a lavorare in fattoria. Oddio. Cesso, ogni tanto se ne inventa l'ora. Dove? In fattoria a casa, dobbiamo mandargli il curriculum. Cesso, ogni tanto mi arriva un messaggio. Cesso. Allora puoi, iniziare a lavorare in fattoria. L'azienda ha appena segnalato che il lavoro è il suo. Lo fa l'assistente, stipendio 1650 più benefici. Se poi accedi al nostro sito web, clicca sul programma colloqui, programma d'orario in cui potrai partecipare all'azienda. Sì. Va, mi fatti dura. Allora tu conta che io tramite una tipo che conosco ho ordinato un paio di scarpe e gli ho fatto la ricarica il 27 di agosto e ancora le scarpe non sono arrivate. Ah, ma questo è roba del telefonino che mi arrivava, capito? Subito lavoro eccetera eccetera e ho cliccato e mi è passato il coso, solo che è tutta una presa per il culo, hai capito? Me l'ho prescrittato per una settimana, l'altro giorno ce l'ho mandato a fanculo, ce l'ho mandato. Poi dovevo lavorare in un'orchestra, come assistente, ma va a fanculo. Vedo un casino. Aspetta un attimo, arrivo subito. Yeah, vedo i galori. Tore senza motore. Manuele, questo è Manuele, Claudio. Attenzione. Beh, c'è più nessuno qua. Qualcuno a questo canale mi frigge la canna. Registrazione. Cleo, che fai? Scappa. Avanti. Cosa c'è? Andare. Io stavo facendo un diretto, va, vengo su. Cleo, se arrivano pagare poi io. Se arrivano prima, paga tu. Vai, dici che lì è fatto e presto. Anche Deo. E io. Lascia acceso. Da qua come metti? Ce la sono, ma sto andando per... No, dall'altra parte, verso giù, verso... come ti posso dire? Devi andare verso su, verso giù. Ti dico dopo, chiudo io. Cleo. A sto, glielo di... una cosa di petti di pollo, da quella vaschetta che si scongela. Eia. Eia. Cleo, tu mi hai chiamato. Bravo. Fra un po' saliamo. Salendo, dai, altri 5 minuti e salgo, dai. No, sempre bene mi ricevi. Salda per tanto. Cleo, mi apri che mi sono dimenticato le cambi. Certamente, che ti apri. Mi ascolti.